Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Siamo partiti da casa e abbiamo camminato fino a Roma con una speranza. Ma solo la mattina di lunedì, mentre ci dissetiamo a una fontana, arriva l'annuncio. Lui vuole incontrarci. Sono Emanuele, vivo a Borgo Satollo in provincia di Brescia e al momento sono disoccupato, ho 37 anni e la mia passione è la scrittura. Avevo un amico al paese, il cui babbo faceva il fotografo. Sapete i fotografi che avevano il negozio proprio? Immagino ce ne siano ancora, forse un po' di meno, che ti sviluppavano i rullini e che vendivano macchine fotografiche e pellicole. E lui aveva, il babbo, aveva nel negozio una fotografia al muro in cui lui da giovanissimo passava suo figlio, cioè il mio amico, a Papa Giovanni Paolo II, che lo accarezzava sulla testa. E io quando vedevo sta foto mi domandavo sempre: ma scusa Claudio, ma perché c'è sta foto? E lui dice: perché quello era un grandissimo, è stato un momento molto importante e io mi ricordo tutto. Ovviamente lui non poteva ricordarsi perché era un boccia grosso così, però evidentemente gliel'avevano raccontato talmente tante volte questo episodio che lui diceva: mio papà mi aveva allungato, Giovanni Paolo II stava passando a piedi, non sulla papamobile, e tornò indietro, mise la mano sulla testa e disse qualcosa, ora non mi ricordo che cosa. Insomma, quel momento, l'incontro con il Papa, era una roba che lui addirittura sosteneva di ricordarsi, nonostante avesse 2 anni. Buongiorno a tutti, è lunedì, è il 10 di marzo del 2014, sono le 16:10, Radio 24, voi siete qui, raccontiamo storie. Oggi raccontiamo una storia, se avete capito, che ha a che fare con il Papa, è la storia di Emanuele. In realtà ha a che fare con l'incontro con un Papa. Se avete incontrato un Papa nella vostra vita, ve lo ricordate. Se avete incontrato un Papa, l'avrete raccontato più di una volta. E se avete voglia, oggi parliamo di questo. 349-238-6666 è il numero per mandare sms. Oppure raccontate sul nostro profilo Facebook, su Voi Siete Qui Radio 24 Facebook o Voi Siete Qui R24 sul profilo Twitter, altrimenti direttamente al mio, che è Matteo Caccia. Che Papa era? Dove vi trovavate? Che cosa ha fatto? Ma soprattutto che cosa ha detto? Perché sembra sempre molto speciale quello che dice un Papa, poi probabilmente lo è, quello che dice un Papa a un bambino, a una persona o anche a un adulto, o comunque nella tua testa diventa proprio un piccolo pezzo della tua vita, probabilmente, che ti accompagna, che ti segue, perché il Papa mi disse così. Quel Papa passò e mi indicò. Poi c'è sempre il particolare che tipo stava andando oltre, l'ho sentito più di una volta, perché stava già andando oltre, poi tornò indietro e disse quella frase. 349-238-6666. La storia di Emanuele è una storia diversa in realtà, perché loro, insomma, il Papa non passava di lì per caso. Il Papa, proprio questo Papa, Papa Francesco, ha detto: no, io questi li voglio incontrare. Questi era un gruppo di pellegrini, quindi immaginatevi di essere in cammino, state facendo oltre 100 chilometri in pellegrinaggio vero e proprio, arrivate a Roma e lì c'è lui, il Papa più pop del mondo. Il 6 di agosto è l'anniversario della morte del nostro Papa, il bresciano Paolo IV. Stiamo celebrando la messa nella Basilica davanti alla Cattedrale di San Pietro, dietro al famoso baldacchino del Bernini. Ci siamo vestiti bene per l'occasione. Oddio, nei bagagli di un pellegrinaggio a piedi non c'è posto per giacche e cravatte o cose simili, eppure l'occasione richiederebbe ben altri abiti. La fatica dei giorni precedenti è un ricordo, ormai. I 150 chilometri percorsi a piedi in 6 giorni sono un dettaglio per fare sfoggio della mia prestanza fisica. In verità non sono mancati i momenti di stanchezza. Il sole è stato forte per tutto il percorso e camminare su e giù per strade polverose e spoglie non proprio uno scherzo. Il pellegrinaggio era partito da Poggio Bustone, vicino a Rieti. Come sempre, la prima tappa è percorsa in scioltezza. Anche i più pigri godono della leggerezza dei camminatori abituali. Io non lo sono, ma mi sembra di poter arrivare in capo al mondo. Ci si perde in chiacchiere, ci si conosce un po'. In effetti, si passeranno insieme 6 giorni di fatica e bisogna capire subito chi assumere a piccole dosi e chi no. Io ho fatto un pezzo del Cammino di Santiago 3 anni fa e ogni tanto esco a camminare qua nei dintorni di casa mia, però non faccio lunghe camminate, diciamo. A fine giornata ci sfamiamo come caimani. Sono felice di esserci. A Aveva avuto dei dubbi se camminare da solo oppure stare in gruppo. Da solo puoi seguire il tuo ritmo, però camminare in gruppo ti aiuta ad accordarti con gli altri. Avere qualcuno al tuo fianco con cui scherzare o che ti possa aiutare se non ce la fai è fondamentale. Siamo partiti da casa e abbiamo camminato fino a Roma con una speranza. Ma solo la mattina di lunedì, mentre ci dissetiamo a una fontana, arriva l'annuncio. Lui vuole incontrarci. Un brivido attraversa le nostre schiene, l'acqua non ci è mai sembrata più dissetante e buona, la fatica un gioco da ragazzi. In qualche modo il sogno si avvererà. Tante volte rimango affascinato dai piccoli gesti che portano a grandi avvenimenti, a cose che non credevo potessero accadere perché io mi sento uno dei tanti. Mentre usciamo da San Pietro siamo scortati, gli altri turisti ci guardano perplessi. Usciamo da una porta sopra la quale c'è una statua che raffigura la morte, ma nulla ci fa paura oggi. Fuori c'è un gran sole, fa caldo. In fondo al cortile c'è casa sua. Due uomini con occhiali scuri si guardano attorno con circospezione. Per pochi istanti il respiro è sospeso. La sudorazione è eloquente. Ognuno pensa a quello che riuscirà a fare o a dire. Altri danno per scontato che non riusciranno ad aprire bocca. Si apre la porta, fotografo d'ordinanza al seguito, ci viene incontro, Papa Francesco. Allora, io gli ho dato un bigliettino con due frasi per paura di non riuscire a dire niente. Lui mi ha detto che avrebbe pregato con quelle due frasi che gli ho dato e poi mi ha detto che gli sarebbero servite. Tutti vorremmo essere i primi a toccarlo. Lui ci saluta sorridente. Mi piace che siete venuti a trovarmi, dice. Gli facciamo un piccolo regalo con una lettera di dedica. Guardo i miei compagni di cammino e mi sento in profonda comunione. Occhi lucidi, emozionati. Il mio cuore batte forte. La vita non è un gioco, dice. È una cosa seria. Va vissuta bene. Benedice la statua della Madonna di Loreto che ha viaggiato in testa al gruppo durante il cammino e la croce che guiderà il pellegrinaggio dell'anno prossimo. Poi ci mettiamo in fila e passiamo a salutarlo. C'è chi lo abbraccia, chi gli bacia la mano, chi lo stringe. Due parole, un saluto, una benedizione per i due promessi sposi. Io mi sono preparato un biglietto da regalargli. Ho scritto un paio di frasi ispirate al pellegrinaggio. Sono lì, a mezzo metro da questo grande uomo. Ho scritto due frasi che mi sono venute durante il cammino, gli dico. E lui mi risponde, questa sera pregherò con queste parole. Quanta grazia. Sono solo pochi istanti, ma saranno da ricordare. Lo lascio per permettere a quelli dopo di salutarlo. E si volta ancora verso di me. Penso che mi servirà questa preghiera, conclude. Io dico solo sì, forse, ma non ha importanza ormai. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer, my friend? Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Shine a Light è il titolo di un documentario che Martin Scorsese ha girato sui Rolling Stones qualche anno fa. Scorsese era interessato a quella luce che continua a brillare sul palco tutte le volte che i Rolling Stones ci mettono piede sopra. I Rolling Stones stanno sul palco da tanti anni ormai, ma il loro carisma è sempre lo stesso. Il carisma è una sorta di grazia che trapela e che il resto del mondo percepisce. Che si sia credenti oppure no, è fuori discussione che Papa Francesco sia un uomo dotato di quella particolare luce. Venuto a mancare Mandela, forse oggi sono lui e Barack Obama le due figure più carismatiche a livello globale e probabilmente anche le più note. Non sempre però la fama va in parallelo col carisma. Per passare alla storia non basta essere famosi, bisogna avere quella grazia, capace di muovere emozioni elementari. La nazionale del 2006, quella che ha vinto il mondiale, ci ha fatto esultare, ovviamente, ma è quella dell'82 che ci ha fatto piangere di gioia. È la nazionale di Zoff, di Berzot, ad essere carica di poesia, con buona pace di Lippi o di Buffon. Nel 1983 avevo 8 anni e vivevo con la mia famiglia. Per noi bambini di provincia la gente famosa apparteneva a un mondo esotico, anche se Romentino è a meno di 50 km da qui, da Milano. Eppure il mondo della città era distante anni luce. Il carisma quindi lo riconoscevamo in quelli che andavano a provare nella rappresentativa. La rappresentativa era il gruppo di ragazzini che giocava meglio a pallone, scelto fra tutte le squadre giovanili della provincia. Una volta al mese c'erano queste convocazioni per allenarsi insieme e migliorare. Tutti sognavamo di essere convocati in rappresentativa e quelli che ci andavano, quando tornavano, toccavano il cielo con un dito. Noi esclusi ascoltavamo quelle storie, quelle sugli allenamenti, ed eravamo orgogliosi di essere amici di questi qui. La luce che emanavano era ovviamente a misura dei miei 8 anni. Per questo, quel pomeriggio che mio nonno venne a prendermi per andare a Novara a incontrare Pertini, mi sembrava di essere di colpo diventato il testimone di un pezzo di storia. Quel giorno Pertini, non so perché, era in visita a Novara e mio nonno, che era reduce della guerra di Libia e sentiva, come tanti, una grande affinità col presidente, volle assolutamente andare a sentirlo. Quando siamo arrivati nella sala c'era tantissima gente. Mi ricordo che tutti portavano un fazzoletto al collo, come quelli che usavamo noi bambini per giocare ai cowboy, fazzoletti rossi, azzurri, arancioni e tricolori. A un certo punto si è fatto silenzio e il presidente è uscito dalla specie di quinta di fianco al palco. Ha camminato svelto verso il microfono e ha alzato un braccio per salutare la platea. Si è alzato un applauso che mi ha fatto venire i brividi. Dopo il suo discorso il nonno mi ha preso per mano e abbiamo fatto la fila per andare a stringergli la mano. Quando è toccato a noi, mio nonno gli ha detto qualcosa. Io l'ho guardato dal basso in alto e il presidente mi ha fatto una carezza sui capelli. Io ho subito abbassato lo sguardo e mi sono fissato le scarpe. Non ho più alzato gli occhi. Probabilmente emanava troppa luce per un bambino abituato al carisma di quelli della rappresentativa provinciale di calcio. Non mi ricordo una parola di quel giorno, ma ricordo le facce di quelli che lo ascoltavano. Era bello vedere tutti quegli uomini, grandi come mio nonno, con gli occhi lucidi e che si sorridevano anche senza conoscersi. Credo che sia questa la differenza che fanno le grandi personalità. Grazie al suo carisma, all'emozione che ha creato quel giorno, noi non eravamo più solo dei testimoni, ma siamo diventati addirittura i protagonisti, insieme a Pertini, di un piccolo pezzo di storia. Ovviamente è insieme a Papa Francesco, Emanuele, nella foto che ci ha mandato e che vi invito ad andare a vedere. Effettivamente non è elegantissimo, come ci dice nel racconto, ha su una polo bianca a righe, però sta, invece il Papa è ovviamente elegantissimo, bianco con il cappelluccio in testa. Emanuele lo sta guardando in faccia, ma Papa Francesco ha gli occhi bassi e probabilmente sta leggendo il bigliettino che gli ha dato Emanuele. Pronto Emanuele? Pronto Matteo. Come stai? Bene, bene, grazie. Sì, io benone, ti ringrazio. Senti, io ho tolto, non le ho lette apposta le parole che c'erano sul biglietto perché volevo che le dicessi tu. Ti ricordi cosa c'era scritto su quel biglietto? Mi ricordo la seconda parte. Guarda, te la leggo. Te la leggo io. Avrai la certezza di essere stato tu stesso cammino per gli altri. Per gli altri. Sì, tu stesso strada da percorrere, fatica da sopportare, gioia per la messa. Perfetto, sembravamo una messa, eravamo perfetti. Emanuele, da dove arrivano queste parole? Dal cuore, penso. Cioè, sono tue proprio? Sì, sì, sono mie. Ah, scusami, credevo fossero una citazione. No, sono mie. Ispirate dal cammino. Ok, e quindi, insomma, Papa Francesco in teoria le ha usate per pregare quella sera stessa. Sì, sì. Senti, raccontami un pochettino con parole tue com'è stato. È vero che, perché arrivano molti messaggi che dicono, a proposito di altri papi anche, che non sono riusciti a dire nulla davanti al Papa. Difatti io mi sono preparato due frasi. Tu te l'hai scritto il bigliettino. Poi non riuscire a dire niente. Dopo gli ho detto, guarda che ho scritto due frasi ispirate al cammino, quando glielo ho detto, e poi glielo consegnate. Ma quindi però... lui abita dietro San Pietro? Cioè c'ha la casa lì? Non abita più, appare la domenica alla finestra, ma abita in una casa più discreta all'interno delle mura, insomma. Però non siete, non siete entrati, ovviamente. Avete visto, no, da fuori? No, ho visto lui nel cortile. Ok. Senti, io ho sbagliato a leggere, tra l'altro, ovviamente il Papa Bresciano non era Paolo IV, ma era Paolo VI, giusto? Sì, Paolo VI, ma non so se ho sbagliato io. No, no, non ho sbagliato io a leggere, Era Paolo VI, che è proprio di Brescia, era Paolo? Sì. Paolo okay. VI di Concesio. Di Concesio. Tu invece di che zona sei esattamente, Emanuele? Io sono appena a sud della città. Che cosa fai? Dici che stai cercando lavoro adesso? Sì, sto cercando con calma perché... Che tipo di lavoro? Non ho problemi al momento economici, quindi... Che tipo di lavoro cerchi? Che tipo... Cosa sai fare? Cosa fai? Io ho sempre fatto il metalmeccanico, cioè okay. quelle cose, però vorrei cambiare, quindi sono un po' in mezzo al guado. Ma tipo, non dimmi, va bene ancora. Dimmi una cosa che stai tipo, vagliando. Nel sociale, mi piacerebbe nel okay. sociale. La prossima, il prossimo pellegrinaggio quando lo fai? Pellegrinaggio non lo so, ho una proposta di un trekking verso aprile di un'amica e vediamo. Ma tu sei un camminatore o ti, l'hai fatto, diciamo, era la prima volta questo Rieti Roma on the road? Questo qua è la prima volta, un pezzo di Santiago, un 300 km sul cammino di Santiago. E comunque me la cavo, non vado spesso ma quando vado me la cavo. Emanuele, sei fidanzato, hai moglie, hai figli? No, niente. Ok, quindi sei tranquillo, forse perché sì. perché diciamo dovresti scriverti dei bigliettini anche quando incontri le ragazze, perché non sembra uno di molte parole, Emanuele. No, in effetti sì. Non lo sono nella vita, ma male, dove, ti molto. Dove ti trovi, tra l'altro, che sento delle urla alle tue spalle? Sono in piazza. Ok. Passeggiando per scaricare la tensione. Va bene, allora io ti ringrazio molto. Era la prima storia che parlava di papi, che è arrivata sì. in assoluto, assolutamente sì. E devo dire che probabilmente è anche dovuto al fatto che questo papa, appunto, è un papa particolare che, sì, che dice sempre le robe fighissime. Ti ringrazio moltissimo, Emanuele. Grazie a te, Matteo. Ciao, in bocca al lupo. Grazie, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. 349-238-6666. Arrivano i messaggi degli incontri col papa. A proposito di... Ho scritto a questo papa per chiedere una preghiera per la mia mamma. Ha fatto di più, ha fatto recapitare due piccole rose benedette. Anche se non sono servite, vabbè, purtroppo quello, diciamo, va un po' al caso. È stato molto molto emozionante. Andrea da Pinerolo. Guarda, se questo non è un figo, cioè tu dici, mi dice qualcosa, lui ti manda due rose. Papa, fai qualcosa anche per noi. Magari è un ascoltatore. Cosa fa il papa? Ascolta, cioè, secondo me, comunque, se ascolta una radio è difficile che ascolti Radio Maria. Cioè, sarebbe come parlare sempre delle stesse robe, no? Cioè, come un calciatore che parla solo di calcio. Ascolterà, secondo me, l'orecchio a Radio 24 in alcuni orari ce lo butta. 349-238-6666. Ragazzi, io ho 37 anni e dalla quinta elementare alla terza media ho cantato al suo fianco con voce, come voce bianca nel coro della scuola Puerorum Cappella Sistina, tutte le domeniche, tutte le sante feste comandate Giovanni Paolo II. A un certo punto per me è diventato come il parroco sotto casa, con il suo codazzo di chierichetti, in realtà vescovo e cardinale. Quanta porpora, ragazzi, scrive Paolo da Roma. Ho incontrato Papa Francesco l'8 gennaio di quest'anno, ero in udienza con i piccoli degenti della pediatria del centro tumore di Milano. È una persona speciale, si è fermato a parlare con ognuno dei bambini compresi. Ah no, con ognuno di noi, bambini compresi, scusatemi. Dall'emozione non sono riuscito a dire nulla. Questo, diciamo, più o meno è l'effetto che fa. Però, papa, ti giuro che se passi da queste parti, una chiacchierata io provo a farla. Qualche parola, facci una telefonata. Oppure ti chiamiamo noi. Margherita, vuoi dirmi che Margherita Ina... Se mettiamo Margherita Ina sulle tracce di Papa Francesco, secondo me non ci scappa. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Pietro Lacorte, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Mauro Pescio. Scaricate il podcast del programma, ascoltatelo altrimenti come volete e soprattutto mandate storie, raccontate storie e mandatecele. Voi siete qui, @radio24.it. Grazie ad Emanuele, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Stefano, vivo a Firenze, la storia di domani è la mia, è fatta di una partita di calcetto e di un pronto soccorso. Questa è la mia storia e io sono qui.